Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, benvenuto anche a Federico Pedrocchi. Ciao Federico. Buonasera Maurizio. Allora Federico, tu ci parlerai questa sera di Internet delle cose, argomento di cui si è trattato recentemente al Politecnico di Milano. Tu sei stato a questo convegno e hai raccolto anche un po' di voci. Che cos'è, tanto per cominciare, questo Internet delle cose? Oh, qui cose va inteso nel senso più lato del termine, come quando noi diciamo quante cose che ci sono a New York, dicendo praticamente tutto quello che c'è. In un certo senso è così. Ci si dice che cosa può venire fuori se mettiamo in rete, li colleghiamo tanti strumenti, tante apparecchiature che sono intorno a noi nella nostra vita quotidiana oppure in pezzi della nostra vita, perché per esempio ci sono tutte le apparecchiature sanitarie, ospedaliere che servono a monitorare la nostra salute. Ecco, Internet delle cose è queste, le tante cose diverse fra loro che possono dialogare, tanti apparecchi che possono dialogare. Quindi apparecchi ospedalieri, ma magari anche automobili. Assolutamente, che anche automobili. Sulle strade, oppure elettrodomestici. Oppure elettrodomestici che dialogano con i contatori. Quindi abbiamo la lavatrice che riconosce segnali che arrivano dalla rete elettrica. Ecco, ma insomma viene fuori che un po' tutto è collegato con tutto, ma siamo sicuri? Esatto. Anch'io ho avuto un attimo questo dubbio, ho fatto esattamente questa domanda a Alessandro Perego, che è responsabile scientifico dell'osservatorio Internet delle cose del Politecnico di Milano. Gli ho detto: senta, ma com'è che è questa roba tutto collegato a tutto? E infatti sentiamo, lui invece no, dice: facciamo un esempio specifico, sono dei sottoinsiemi che hanno importanza. Alessandro Perego, allora. Immaginiamo una situazione del genere in cui esista una rete che monitora la situazione all'interno della casa, cioè cosa succede nell'abitazione, ad esempio l'uso di elettrodomestici o ad esempio l'uso della luce o dell'illuminazione o ad esempio sensori relativi per esempio alle fughe di gas. Tutto questo monitoraggio dello stato dell'abitazione può consentire di favorire il monitoraggio dello stato di persone in situazione di difficoltà. Possono essere anziani o possono essere malati. Ad esempio, se un anziano non usasse per 2 o 3 ore nulla di quello che c'è in casa in un'ora in cui normalmente non è a riposare, questo potrebbe in qualche modo dar luogo ad un allarme che consente di intervenire per verificare lo stato della persona. Beh, insomma, Federico, forse non bisognerà collegare proprio tutto con tutto, no. Però viene fuori che monitorando il portellone del frigorifero si ottengono informazioni sullo stato di salute magari di una persona, quindi comunque ci sono anche collegamenti inattesi, vero? Certo, e il portellone del frigorifero è un must, diciamo, perché per esempio questo sistema potrebbe anche avvisarti, io ne ho fatto esperienza recente, che hai lasciato il portellone dei surgelati aperto e quindi lì magari ti perdi 40 euro di roba, e invece sullo smartphone ti arriva il messaggio che hai lasciato il frigorifero. Se sei ancora vivo, perché se sei ancora in salute, chiudi la porta del frigorifero. Esatto. Senti, ma qui ci stiamo avvicinando molto a questo campo che è quello della domotica, no? Esatto. Portare l'intelligenza dentro casa in qualche modo è sempre stato sinonimo di domotica. Domotica, che è una roba di cui si parla da 20-25 anni, probabilmente era stata un'idea troppo anticipatoria. Adesso effettivamente con queste cose che stiamo dicendo, con questi strumenti, può diventare di attualità. Anche perché forse questi strumenti ci fanno capire qual è l'effettiva utilità della domotica, che non è aprire le tapparelle col telecomando. No, esatto, che è di questo se ne è parlato veramente per troppo tempo. Allora, ho sentito Fabio Cinesi, che è direttore operativo di Homelab, è un consorzio di aziende grosso italiano che lavora sulla domotica. Che cosa può dare quindi questo grosso comparto industriale? Perché è veramente grosso e poi l'Italia è piazzata molto bene con gli elettrodomestici a livello di qualità mondiale. Sentiamo. Tutti ci rendiamo conto che questo mondo con questi consumi non è sostenibile, quindi l'esigenza di ridurre i consumi porta ad avere una maggior sensibilità sui temi ambientali, che parte per esempio già dal costruire case sostenibili, nel senso che abbiano bassissimi consumi. Ma qui andiamo a risolvere in maniera eccellente la parte dell'involucro, quindi dell'isolamento. Rimane da in qualche modo affrontare, risolvere e proporre soluzioni per quello che è l'interno della casa, perché ad oggi nell'interno della casa ci passiamo moltissimo tempo, avvengono il 30% dei consumi elettrici a livello europeo o a livello totale di una nazione, e quindi è importantissimo anche andare a intervenire in questo 30% di riduzione dei consumi. Tenga conto che l'elettrodomestico stesso può fare molto per bilanciare per esempio i carichi. Quando c'è il picco, l'elettrodomestico che non ha necessità di in quel momento di operare, se sta cucinando non si può spegnere, ma una lavatrice può rallentare il ciclo se sente che c'è un segnale di picco, cioè di richiesta maggiore elettricità, e finire il ciclo mantenendo un eccellente lavoro di prestazioni di lavaggio, ma si può rallentare in modo di distribuire il consumo energetico. Che cosa dicono questi di Homelab? Dicono allora che bisogna progettare anche gli appartamenti, non solo l'esterno delle case, dal punto di vista dell'utilizzo della domotica. Questo attualmente non c'è. Bisogna anche, questa è un'indicazione importante per gli amministratori pubblici, fare dei bandi per costruire, insomma, dei quartieri, chiedendo appunto la sensibilità sulla casa dei singoli, sulla famiglia, insomma. Insomma, bisogna preparare il terreno, perché queste tecnologie a un certo punto si diffonderanno e bisogna che trovino pronto il parco abitativo. Grazie Federico Pedrocchi. Ciao. Bene, lasciatemi dire, prima di salutarvi, che abbiamo appena sfiorato questo argomento sul quale certamente torneremo. Insomma, il fatto è che dopo gli esseri umani sempre più apparecchi e oggetti di tutti i generi si affacceranno su internet. Abbiamo fatto qualche esempio, ma ne possiamo fare altri. Pensate a vasi da fiori che ci ricordano che hanno bisogno di essere innaffiati, a scarpe da tennis che tengono il conto dei chilometri percorsi e magari delle corrispondenti prestazioni sportive. Pensate a dei flaconi e dei farmaci che ci rammentano quando è il momento di prenderli. Non si tratta di un futuro poi particolarmente lontano, perché già oggi esistono tecnologie molto economiche come l'RFID oppure i codici QR che quantomeno consentono di dare un'identità elettronica ad un oggetto qualsiasi, di mapparlo dentro questa grande internet delle cose. E prevedibilmente dalla mole di dati che si produrrà sarà quasi certamente possibile ricavare applicazioni, utilizzi imprevisti, cioè non presi in considerazione inizialmente. Vedremo chi sarà il fortunato che saprà intercettare queste opportunità. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.